Siamo giunti a metà di questa avventura. Nessuno è venuto ad accogliere i vecchi eroi. Tanti anni fa, per la prima volta, say.